Ero bagnato fradicio e coperto di fango e avevo fame e freddo ed ero lontano 50.000 anni luce da casa a combattere su un mondo straniero e a chiedermi se ce l'avrei mai fatta a riportare indietro la pelle. Adesso c'era arrivato anche il nemico su questo fottuto pianeta. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia, crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Era stata la guerra, subito. Quelli avevano cominciato a sparare, senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica. E adesso bisognava combattere, coi denti e con le unghie. Vedi uno di loro strisciare verso di me, presi la mira e feci fuoco. Il mostro emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. La vista del cadavere mi fece rabbrividire. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d'un bianco nauseante e senza squame. Boca chica. Desmadrón. Boca chica. Desmadrón. E bentornati a Boca Chica Cosmodrom, siamo alla puntata 6, ai pulsanti, le leve, pulegge, pedivelle varie, Bimo, che ancora non è qui ma ci raggiungerà da remoto, e Cobol. Buonasera a tutti e bentornati dopo una puntata che in realtà è stata una puntata di mezzo in cui non è andata in onda Boca Chica Cosmodrom, ma è andata in onda Bogdanov Cosmodrom con uno speciale appunto proprio su questo pensatore, filosofo, cosmo-marxista che è stato Bogdanov, Aleksandrovich Bogdanov. E ancora buonasera. Boca Chica Cosmodrom, il programma radiofonico che racconta il capitalismo spaziale, di questo parliamo, e che quindi di conseguenza estende l'antagonismo oltre il sistema solare. Io intanto vi ricordo che noi abbiamo un canale Telegram, adesso comincia anche ad essere parecchio frequentato, su cui ci sono, in cui settimanalmente vengono pubblicati contenuti speciali. Poi potete avere un'interazione anche in diretta in questo momento con noi, ma anche durante la settimana, quindi una cosa che secondo me è molto bella. E poi i nostri podcast di tutte le puntate, a questo punto con questa 6 più una 7, sul sito di Forte Prenestino, quindi forteprenestino.net, che è anche il sito della radio. Nel navigatore troverete infatti il pulsante della radio, dove ci sono le dirette, ma ci sono anche tutti i podcast delle fantastiche dirette, tutte le trasmissioni che vengono fatte qui a Radio Forte. Radio Forte all'interno delle stanze introvertite del Forte Prenestino, sì, è insomma alla fine del secondo corridoio sulla destra, assolutamente per chi frequenta Forte Prenestino ci trova esattamente in quella locazione. Cosa abbiamo ascoltato prima della sigla? La Sentinella, Frederick Brown, 54, che è probabilmente il racconto di fantascienza più breve che sia mai stato scritto. E in realtà è un ribaltamento totale della prospettiva, perché alla fine noi ci accorgiamo che ad essere l'alieno non è appunto un essere diverso dall'umano, ma è l'umano visto da un alieno. Insomma, bellissimo racconto in realtà, in poche righe, condensato di antispecismo da un certo punto di vista, ma anche di capacità appunto di saper ribaltare la prospettiva quando occorre. E di antispecismo parleremo stasera, come ci più o meno ci ritroveremo a parlare di antispecismo. Perché? Perché questa sera affronteremo un po' di cosmo anticapitalismo, di culture cosmo anticapitaliste, di cui alcune di queste fanno dell'antispecismo anche una delle loro bandiere di battaglia. Tra l'altro, antispecismo che secondo me è molto ben sintetizzato invece da un altro racconto, dal racconto di Dick, dal Guaritore Galattico, un piccolo libro del 69. Vi leggo anche tra l'altro un pezzettino. La scena è questa: praticamente Joe Chip, che è il personaggio principale, si ritrova, se non ricordo bene perché, all'interno di una assemblea multiplanetaria, e dice questa cosa: mezz'ora più tardi una moltitudine di organismi senzienti riempiva la sala riunioni. Joe, guardando quell'enorme varietà di forme di vita, si rese conto che sulla Terra si era cibato di alcune di esse. E beh, insomma, diciamo, nella dimensione sopraplanetaria, per evitare incidenti diplomatici di questo tipo, cioè ad esempio dover interagire con un essere alga ed essersi reso conto che sulla Terra, anzi non essere alga no, anzi diciamo con un essere pesce, ed rendersi conto in quel momento che sulla Terra ci si è cibati di parenti di questo essere pesce, potrebbe effettivamente creare un incidente diplomatico. Quindi meglio essere assolutamente antispecisti e quindi vegani anche nelle scelte alimentari, ma ci torneremo, insomma. Vi faccio intanto sentire un'altra citazione e poi ritorneremo qui con Boca Chica Cosmodrome. Affronteremo la minaccia con il nostro valore, il nostro coraggio e con la nostra stessa vita, per garantire con ogni mezzo che solo la civiltà umana e non gli insetti possa dominare questa galassia ora e per sempre. Vabbè, una citazione divertente e carina da Starship Troopers, dal film Paul Verhoeven del 98. In realtà è un bel film, è un film che a me piace molto, Fanteria dello spazio, tratto da un racconto di Elaine del 59, appunto, Fanteria dello spazio. Elaine è uno scrittore di fantascienza che in realtà molte volte è annoverato diciamo tra gli scrittori della destra. Gianfranco De Turris, che è forse il personaggio squallido, personaggio più importante, più seguito, diciamo neofascista, che si occupa di fantascienza in Italia, ha coniato questo termine che è fantafascismo, e sono usciti anche un po' di racconti negli anni di fantafascisti italiani, che in realtà è una roba molto molto squallida. Quindi non li ho letti, ma insomma ho parlato con chi li ha letti, mi ha detto che è roba scritta abbastanza male generalmente. Paul Verhoeven, che in realtà fa questi due film, Starship Troopers del 98, ma ancora prima ha fatto Atto di Forza, che è deriva da un racconto di Philip Dick molto bello. Io l'ho letto, Dick, nei racconti di Dick, in realtà, o i libri di Dick molto spesso sono rititolati in vario modo. Io l'ho letto, lo lessi, è un testo del 60, è un libro del 60, io quando lo lessi lo comprai, che si chiamava Ricordiamo per voi, poi probabilmente poi ha preso altri titoli, insomma credo che sia stato pubblicato anche come Atto di Forza dopo gli anni 90, insomma non mi ricordo io quanto l'ho letto. E beh, praticamente in un certo senso Dick in questo racconto risponde un po' alla domanda che avevamo lasciato aperta la volta scorsa con Bogdanov Cosmodrome, nella puntata di Bogdanov Cosmodrome, la prima, ovvero chi aveva ragione tra Lenin e Bogdanov. Lì dove Lenin è un materialista storico e crede nella realtà di fatto, nella oggettività dura delle cose, Bogdanov invece è un empirico criticista e quindi in qualche modo si rifà più a una collezione organizzata di sensazioni da questo punto di vista. Lì nasce, lo dicevo, lo raccontavamo, questo grosso dibattito tutto interno al nascente Partito Comunista Russo. Beh, fuma Dick in un certo senso in qualche modo dice la sua, e dice che tutti e due hanno ragione, si potrebbe dire, perché gli innesti di memoria che vengono piantati all'interno di Quain, che è il protagonista appunto del suo racconto, sono molto materiali, sono molto reali, però poi le sensazioni e i ricordi sono assolutamente fittizi, perché sono innesti appunto di memoria. Quindi una terza via che si apre tra Lenin e Bogdanov, istituita, se volete, forse da Dick. lo specismo, specismo che ritornerà, l'antispecismo e quindi anche specismo che ritornerà nella puntata, l'abbiamo detto nell'introduzione. Che cosa, da dove veniamo? Beh, insomma, diciamo, a parte la puntata, la puntata scorsa, quindi Butanov Cosmodrome, in realtà veniamo da il racconto del capitalismo spaziale e siamo alla seconda fase del capitalismo spaziale, quello che va dagli anni 80 al 98. Due puntate fa ci siamo soffermati su quella che è il cosmocapitalismo, cioè ovvero sulle fasi in cui il capitalismo è riuscito a portare nella o fuori la biosfera, nella dimensione extraatmosferica, appunto la propria capacità di fare valore, di valorizzare le risorse al di fuori della biosfera. E abbiamo fatto, ricordando l'epoca Shuttle, i trattati economici sullo spazio, da quello della Luna a quelli che poi in realtà ritratteranno lo stesso trattato della Luna, rimangiandosi il fatto che in realtà che al di fuori della biosfera le cose non sono privatizzabili, stazioni orbitanti, le missioni, le sonde e soprattutto lo scudo spaziale, lo scudo spaziale reaganiano. Insomma, una puntata, come dire, molto molto molto anni 90, e quindi proprio perché siamo negli anni 90 e resteremo più o meno negli anni 90, apriamo con un gruppo romano che in qualche modo, che ha suonato anche qui a Forte Prenestino, cioè girava negli anni 90 qui a Forte Prenestino, e che era rappresentativo dell'epoca. Adesso voi starete pensando, sì, gli assalti frontali, perché no, non sono assalti frontali, tutto un altro filone musicale, e vi lascio e dopo ci torniamo. Ecco, insomma, io voglio lanciare un messaggio a Bimo. Bimo, se vuoi intervenire in diretta, questo è il momento. All'universo, in uno schermo tutto via. Erano gli anni 90, nuovi alfabeti, loro erano i PVC. Bene, insomma, ben riatterrati qui a Forte Prenestino, in diretta da Radio Forte, Boca Chica Cosmodrom. Beh, insomma, ci siamo lasciati con un assaggio, un accenno di quello che sono state le puntate scorse, quindi con la missione, con le prospettive del cosmo capitalismo. Beh, allora la domanda che ci facciamo e ci facciamo in ogni puntata potrebbe essere questa: così come esistono pratiche, diciamo, capitalistiche che guardano lo spazio come luogo di sfruttamento delle risorse, della valorizzazione, della creazione di plusvalore, la domanda potrebbe essere questa: esistono pratiche o gruppi, pensieri, filosofie anticapitaliste che guardano al cosmo come spazio di conflitto al capitale e come luogo di emancipazione? Beh, stasera cercheremo di rispondere proprio a questo tipo di domanda. In realtà un po' di puntate precedenti ci eravamo fermati alla chiesa del Subgenius come ultima frontiera del cosmo anticapitalismo degli anni Ottanta. Quindi con questa puntata noi riprendiamo esattamente quel discorso e ci spostiamo oltre gli anni Ottanta, così ci spostiamo proprio super inizio degli anni 90. Il Subgenius era ne abbiamo parlato la volta scorsa, si può definire una cultura di cultural jamming, cioè di sabotaggio culturale. In realtà, come dire, si tratta, a differenza di quello che accadeva, parliamo del 77, di quello che accadeva negli anni 70, si tratta di culture alternative, antagoniste al capitale, però molto più disposte rispetto a quello che accadeva in Italia, in generale in Europa, a giocare con spezzoni di pop e di cultura di massa. Da noi in Europa il vecchio continente in qualche modo è stato sempre più serioso da questo punto di vista e sempre meno disposto a giocare rispetto a quello che accadeva negli Stati Uniti. Ma andiamo comunque con la sigla. E ripartiamo dal posadismo. Ne avevamo parlato un po' di puntate fa, ovvero quel segmento di marxismo che parte dalla Quarta Internazionale Trotskista, in qualche modo per contaminarsi di tutta una serie di tematiche che al trotskismo sono abbastanza esterne. Soprattutto in questa trasformazione dall'internazionalismo di Trotsky a l'interplanetarismo. Beh, in fondo, se uno ci pensa, ma perché fermarsi nella lotta contro il capitale al nostro sferoide oblato, alla Terra, quando in realtà può essere una buona idea, un buon precetto, quello di pensare già a un abbattimento del capitale oltre la biosfera? E questo deve aver pensato Posadas quando ha fondato appunto il suo posadismo, il suo quarto internazionalismo di matrice sudamericana, argentina in particolare. Ripartiamo proprio da questo e quindi dall'idea, da una sorta di ribaltamento, dal fatto che in realtà così come noi possiamo incominciare ad immaginarci un allargamento, un'estensione di quello che è il conflitto oltre la biosfera, e questo è assolutamente lecito, allo stesso modo noi possiamo immaginarci che gli alieni, degli ipotetici alieni, facciano la stessa cosa, cioè vengano verso la Terra, verso il pianeta Terra, e ci possano in qualche modo aiutare o comunque spronare a uscire e a liberarci dalle nostre catene. Buon popolo della terra, ascolta! Buon popolo della terra, ascolta! Noi combattiamo solo perché siamo stati aggrediti! Smetteremo subito appena voi cesserete le vostre ostilità! Buon popolo della terra, ascolta! Noi non chiediamo che 3 chilometri di territorio per compiere i nostri studi! Fate che i vostri capi accettino le nostre richieste e noi metteremo subito fine a questa inutile guerra che altrimenti vi sterminerà. Questo è uno dei tormentoni che tornano più spesso nella nostra trasmissione in Boca Chica Cosmodrom, e i misteriani, i Scironda del 57, che poi in realtà è un po', a sentirlo bene, la trasposizione in chiave esoplanetaria, cioè al di fuori della biosfera, nella sfera dell'extra atmosfericità, di quella che è un grido di battaglia tipico dei movimenti, credo forgiato negli anni 90, che era chiediamo spazio, ci danno polizia, questa è la loro democrazia. Beh, ecco, insomma, a livello esoplanetario praticamente c'è questa trasposizione che fu pensata del tutto indipendentemente dai Scironda nel 57. Bellissimo film, I Misteriani, guardatelo perché ne vale assolutamente la pena. Ma noi parlavamo di Posadas solo per esclusivamente, perché di Posadas potete andarvi a sentire i podcast passati, ne abbiamo già parlato, per introdurre qui Dante Minazzoli. Dante Minazzoli è il primo cosmo anticapitalista di cui parleremo questa sera, che in realtà è un posadista, nasce da ambito posadista, quindi dalla Quarta Internazionale Sudamericana, però si libera di tutti quelli che sono degli elementi molto caratteristici del posadismo, cioè ovvero la comunicazione con i delfini, le prospettive di una guerra atomica intesa come guerra come guerra insorgente del proletariato contro le nazioni borghesi, e si concentra quasi solo esclusivamente sul fenomeno UFO. In questo senso assistiamo a una sorta di ribaltamento, no? Con Posadas noi abbiamo il marxista che guarda con gli strumenti del marxista agli UFO, nel caso di Dante Minazzoli noi abbiamo l'ufologo che con strumenti marxisti guarda al fenomeno UFO e cerca di darsi una spiegazione, fondamentalmente cerca di dare una spiegazione. Ora, Dante Minazzoli muore, se non sbaglio, negli anni 90 o 2000, poco insomma, non tantissimi anni fa, ma fa in tempo a scrivere un libro molto molto interessante, che è Perché gli extraterrestri non prendono contatto pubblicamente. Come vede, un marxista è il fenomeno degli UFO, che è esattamente dell'89. È un libro scritto in italiano, il motivo non lo so perché decise di scriverlo in italiano. Adesso si trova anche sulla rete in PDF, quindi chi è interessato, chi è curioso di leggere questo bizzarro libro, lo trova in rete. Lo ripeto, Dante Minazzoli, Perché gli extraterrestri non prendono contatto pubblicamente. Ma in realtà è un libro che parla di UFO, ma in realtà parla soprattutto della prospettiva che gli UFO che gli UFO non siano, intanto appunto un'ipotesi che gli UFO siano degli alieni, e sul perché effettivamente questa domanda, che torna ricorrente, molto molto molto molto energica, perché se sono alieni e si manifestano non prendono contatto pubblicamente? Beh, insomma, la risposta la troverete sul libro, però in qualche modo diciamo esistono almeno due teorie. Una è quella di Dante Minazzoli, della quale parleremo, l'altra è quella che adesso vi faccio sentire. Il suo comportamento è assurdo, la vita di Palmer è in pericolo, deve sbrigarsi. Sì, me ne rendo conto, ma ognuno di noi, compreso il dottor Palmer, ha giurato di difendere e rispettare la prima direttiva, anche a costo della propria vita se necessario. Avete sentito la prima direttiva, che tra l'altro era alzata proprio per farla sentire meglio, la prima direttiva. E la prima direttiva ci riporta a Star Trek, in questo caso a The Next Generation, la mia serie, in realtà la mia stagione preferita di Star Trek, secondo me, è a Picard. Avete riconosciuto chi segue la serie, chi è appassionato di Star Trek, la voce di Picard. Allora, una delle ragioni per cui gli extraterrestri potrebbero non prendere contatto con noi è proprio quella relativa alla prima direttiva, che poi in realtà è un precetto antropologico. Ovvero la non interferenza delle civiltà più tecnologicamente evolute rispetto a civiltà meno tecnologicamente evolute. Però allora a questo punto si può chiedere, ma scusate, ma allora qual è il parametro? Cioè, quando è che una civiltà è abbastanza evoluta per entrare in contatto con un'ipotetica confederazione aliena che ci porterà fuori dalla schiavitù e fuori da quelle che sono le miserrime condizioni della vita umana? Beh, la risposta ci viene proprio da Star Trek, da un bellissimo film che è Primo Contatto, di cui però adesso non mi ricordo degli anni 90, fine anni 90 se non sbaglio. Quindi Star Trek Primo Contatto è un film molto politico da questo punto di vista, quindi ve lo straconsiglio. E la risposta è la velocità curvatura, cioè quando una civiltà raggiunge la cosiddetta velocità curvatura, che è una velocità superiore alla velocità della luce perché sfrutta in realtà la piegatura dello spazio-tempo, allora la civiltà evidentemente è pronta per essere contattata da questa confederazione aliena. Ma questa non è la risposta che dà Dante Minazzoli al tutto. Dante Minazzoli in questo è molto meno fantascientifico. Dante Minazzoli ci dice che gli alieni, ipotetici, se di UFO di alieni si tratta, anzi, ho detta male, gli UFO, se di alieni si tratta, non ci contatterebbero perché in realtà il nostro mondo è ancora impreparato e vive all'interno di una serie di sperequazioni che sono quelle tipiche della nostra società. E quindi per Dante Minazzoli noi dovremmo compiere intanto il processo rivoluzionario, quindi stravolgere quelli che sono i rapporti fondati sul capitale, quindi i rapporti umani fondati sul capitale, i rapporti umani fondati immediati attraverso la merce, sbarazzarci di queste condizioni che poi ci metterebbero nell'alveo delle precondizioni per entrare in contatto con quelle che potrebbero essere altre civiltà aliene, che sennò altrimenti prima non ne vogliono sapere di noi. Io vi faccio sentire, proprio dalla voce di Dante Minazzoli, insomma io molto emozionato di questa cosa, un passo molto interessante, e dico anche questa cosa a Bimo. Bimo, se ci sei, è il momento per battere un colpo. Per quel che riguarda il fenomeno UFO, a me mi interessa soprattutto, partendo dall'evoluzione che viviamo in questo mondo terrestre, dove noi ne abbiamo ancora risolto i problemi sociali, di contraddizione veramente aberrante, cioè di un sviluppo della scienza e la tecnologia a un ritmo ogni volta più veloce, ma noi restiamo dal punto di vista sociale molto arretrati, una società caratterizzata per tremende contraddizioni, di gente che muore di fame, milioni che muoiono di fame o che soffrono la fame, di guerra, distruzione, di diverso genere, eccetera, eccetera. Queste contraddizioni sembrerebbe, secondo i documenti che gli Uniti hanno inviato a certi terrestri, sembrerebbe che loro l'hanno soluzionato de parecchio tempo, hanno riuscito a combinare lo sviluppo scientifico e tecnologico che le permette di arrivare a noi. Ciao Bimo, tra poco ci siamo. Una trasformazione delle vecchie contraddizioni che loro hanno sofferto e alle quali loro fanno referenza, volta a volta anche più aberranti che le nostre, hanno superato questo per costruire un regime sociale egualitario, con diritti uguali per tutti, eccetera, eccetera. E beh, fa sempre molto molto effetto sentire un marxista che parla di UFO. E questa era una vecchia intervista a Dante Minazzoli fatta da Alfredo Lissoni, che è un ufologo, diciamo uno dei pochi seri, secondo me. Lui parlava degli Ummiti in questo caso, adesso non entreremo, però diciamo della civiltà Ummita, ma insomma in realtà non entreremo nello specifico, non ci interessa. Il suo è un discorso che vale in generale su tutte quelle che sono le sperequazioni che il nostro pianeta vive e che sono i limiti che non ci consentono di entrare in contatto con altre civiltà aliene. Ma io sento Bimo, ci sei? Certo che ci sono. Oh, dove sei intanto? Sono nella notte oscura di Tallinn. Oh, che bello, che bello. Anzi, non si dice Tallinn, si dice Tallinn. Tallinn, e in realtà sei stato mandato lì da Radio Forte. Esatto, per vedere le luci di San Pietroburgo all'orizzonte. Esatto. Diciamo, abbiamo questi potentissimi mezzi, tanti soldi, e quindi tu sei un inviato di Radio Forte a Tallinn. Sono qui, mi sono speso i fondi di Radio Forte in un ristorante e adesso ma tutto per la rappresentanza, va bene. Esatto. Io ho detto subito chi è che stava pagando, quindi adesso la radio è popolarissima, sta lì. Bene Bimo, quindi insomma da adesso in poi siamo insieme. Io ho fatto una lunga introduzione, ho anche introdotto con Dante Minazzoli, che tu conosci e che in realtà con cui in realtà chiudiamo questa prima parte della trasmissione. Io solo una cosa volevo dire, una cosa a proposito del livello della civiltà sulla Terra. Sì. Ci sono tra le tantissime metriche, ce n'è una, adesso il nome ovviamente io mi ricordo sempre le cose a metà, quindi questo non cambierà mai, però ci sono sostanzialmente una scala su tre livelli che dipende dalla quantità di energia che una civiltà può controllare. È quindi, la scala card qualcosa, giusto? Sì. Cardania è una cosa del genere. Dei tre livelli siamo tristemente quasi al primo, quindi penso non verremo contattati molto presto. No, se hai ragione Star Trek, tra l'altro che dovremmo raggiungere la velocità curvatura, sì, anche io credo che siamo molto, molto, molto in ritardo, insomma, sì, e non riusciremo. Sì. Dovremmo almeno poter disporre di tutta l'energia della nostra stella, cioè del Sole, e non siamo neanche a tutta l'energia della Terra, quindi rimarremo da solo. Con la velocità curvatura no, perché in realtà la velocità curvatura supera la velocità della luce senza però doversi approssimare alle velocità relativistiche, perché in realtà sfrutta la curvatura dello spazio-tempo. Però sì, sicuramente in qualche modo avremmo comunque questo problema e comunque non è una cosa che possiamo risolvere nell'immediato. Ma infatti non siamo stati ancora contattati e l'ipotesi di Minazzoli del fatto che effettivamente siamo troppo indietro, e questo essere troppo indietro... Esatto, sì, si riversa soprattutto sulle nostre condizioni sociali, che poi sono quelle del capitale, perché lui è un marxista e riconosce nel capitale un limite proprio a questo tipo di possibilità di contatto. È una cosa molto interessante. È un'altra metrica per misurare. Assolutamente. Però io la trovo molto interessante, la trovo anche molto legata a quelli che sono a quello che è il nostro contesto sociale, in cui far ricerca, diciamo, tra virgolette, ufologica si sposa in una maniera pragmatica anche con il precetto di fare qualcosa di buono per la nostra società. Tu che dici? Sì, sì, certo, assolutamente. Ma poi è bello che ci sia questa scala in qualche modo qualitativa, no? Non, le altre sono scale numeriche sostanzialmente, e invece questa scala, diciamo, il superamento del capitalismo non è un numero, alla fine, no? È una condizione, è più qualitativa e anche più interessante, se vogliamo. Sì, è più legata anche alle nostre possibilità, alla nostra volontà di fare qualche cosa, nel senso, esatto, potrebbe essere uno stimolo, no? Mentre un livello tecnologico si raggiunge in una maniera quasi deterministica, se vogliamo, prima o poi uno può dire possiamo arrivare alla singolarità tecnologica. Un'altra cosa molto diversa è dire no, in realtà noi dobbiamo puntare al rivoluzionare al socialismo. Esatto, rivoluzionare i rapporti sociali, almeno i rapporti sociali, quelli che oggi si fondano sulle merci, riportarle ad un livello che appunto non sia più quello delle merci, perché vogliamo il cambiamento, e quindi questo potrebbe aprirci alla possibilità di entrare in contatto con forme di vita extraterrestri più evolute. Quindi molto posadista questa posizione. Beh, sì, è quello, infatti, quello che dicevamo prima. Minazzoli, come tu ben sai, sono perso, è esattamente un compagno di viaggio di Posadas, solo che, come dicevo prima, in realtà a differenza di Posadas, che resta un trotskista e che è anche molto attratto da altre problematiche, tipo appunto la guerra atomica vista come guerra diciamo, anzi come possibile cuneo del movimento proletario contro, diciamo, come guerra borghese, in cui tu puoi però come movimento proletario puoi entrare, un po' come Trotsky vedeva la Seconda Guerra Mondiale, no? Cioè come occasione per i movimenti proletari di in qualche modo di influire proprio sugli stati borghesi nel momento in cui si facevano battaglia l'uno con l'altro. E Posada solo vedeva la stessa, trasponeva tutto ciò sulla guerra atomica, e poi era molto interessato alla comunicazione con i delfini, si vede che era una cosa molto legata all'epoca. Io chiudo dicendo che Minazzoli in realtà ha anche questa ulteriore caratteristica di vedere nei contattisti una sorta di avanguardia. Quindi se la manifestazione ufficiale degli alieni, dei ipotetici alieni, è ritardata dal non aver superato qui sul nostro pianeta una serie di contraddizioni che sono quelle tipiche del capitale, è anche vero, secondo Minazzoli, che i contattisti, cioè coloro che dicono di essere contattati e di essere entrati in rapporto con gli alieni, i famosi IR1, IR2, anzi diciamo gli IR3, soprattutto dall'IR3 in poi, l'1 e il 2, non è IR1 controavvicinato del primo e del secondo tipo, non prevede un'entrata in rapporto con forme di vita aliena, ma solo con le tecnologie aliene. Quindi dal terzo stesso livello in poi, quindi dall'IR3 in poi, sono i cosiddetti contattati o contattisti, che nell'ottica di Minazzoli diventano quindi una sorta di avanguardia leninista, no? Nel senso che appunto loro non si manifestano ufficialmente, infatti il suo libro dice perché non si manifestano ufficialmente, ma si manifesterebbero in maniera come dire, maculata, personale, no? Esatto, maculata sui vari contattisti, che diventano a quel punto non solo degli intermediari tra gli alieni e noi, ma diventerebbero anche i portatori del verbo, in qualche modo, dell'avanguardia estremofila, che sono appunto rappresentata dagli extraterrestri, e del verbo anticapitalista extraterrestre, insomma. Quindi un contattista cercherà di uccidere Musk entro breve. Se non si uccide prima da solo, visto le crisi di isteriche che in questo momento si registrano alla SpaceX, di cui parleremo, diciamo, noi con questa puntata tra l'altro chiudiamo la parte storica, dalla prossima, per tua grande felicità, apriamo sul presente e il prossimo futuro. Anche, sì, assolutamente. Ma tu resti con noi, io manderei un brano. Sì. Perfetto. Sì, vai, manda. Vediamo se lo sento. Questo ne abbiamo sentito parlare più volte, Killer Clown from Outer Space. Ci sei, Bimo? Certo che eccoti. Ci sono, la musica da Tallinn non si sente. Ah, va bene, questa cosa la metteremo appunto un po' più avanti, ma insomma, Killer Clown from Outer Space, film di cui abbiamo parlato più volte, non mi ricordo se avevamo già fatto sentire la fantastica colonna sonora, che sì, questa sì, che avete sì, sentito, sì, l'avevamo sì. fatta sentire, me l'ho dimenticato, di cui ne avevamo parlato, però non mi ricordo se avevamo messo la musichella, insomma questo intendevo dire, ma comunque insomma, bellissima secondo me, tra l'altro film fantastico perché in realtà racconta in una maniera super ironica e di quel trash che ci piace tantissimo, di un fraintendimento culturale, cioè arrivano gli alieni sulla Terra, ma guarda caso, e del tutto in maniera del tutto accidentale, assomigliano a The Killer, dai clown, quindi il disco volante è una tenda da circo e sparano popcorn e imprigionano la gente nello zucchero filato, bellissimo, vedetevelo, Killer Clown, lo trovate in rete, Fratelli Chiodo dell'88. E beh, insomma, io non lo so, tu hai qualcosa da dire, Bimo, perché sennò io altrimenti introduco Andromalis e poi torniamo sul cosmo anticapitalismo. Ma io direi introduci Andromalis. Allora, Andromalis, sì, che è illustratore. Intanto pago un altro giro di vodka ai camerieri con i soldi del forte. Ok. Andromalis, illustratore, fumettista, agitatore culturale, che ci aiuta a trovare le tracce, a scovare tracce, come dire, appunto, cosmo anticapitaliste nel mondo del fumetto. E beh, niente, bando alle ciance, perché tra l'altro Andromalis ha anche la sua sigletta. Black Two. Barada, Nikto, Klaatu, Barada, Nikto. Klaatu, Barada, Nikto. Il fumetto di cui voglio parlarvi oggi è devastante. Lo è nelle dimensioni, 760 pagine, e lo è perché non incontrerete mai come lettori tanta esibita violenza, tanto gratuito sangue e tanta compiaciuta merda senza soluzione di continuità. Prison Pit di Johnny Ryan è uscito negli Stati Uniti come serie tra il 2009 e il 2018 ed è stato pubblicato in Italia in un unico mattone giallo, questo è il colore della copertina, da Eris nell'Annus Pandemicus 2019, per ironia di Cabala. Particolare menzione va al traduttore Valerio Stivè, perché in Prison Pit il protagonista, un ultraviolento guerriero wrestler intergalattico, mentre trita, massacra, squarta e distrugge i suoi mille mostruosissimi avversari, un cattivissimo eunuco nazista o il devastante testa di scroto, per esempio, li apostrofa con ogni ributtante insulto, ben oltre il politicamente scorretto e sempre a sfondo sessuale o coprofagico. L'impressione è di trovarsi innanzi alla polluzione continua di un preadolescente onanista e tossicodipendente di videogames, probabilmente cripto-omosessuale e sicuramente misogino. L'unica presenza femminile, un mostro metà donna e metà pterodattilo, viene stuprata e uccisa dallo sceno protagonista, il quale ha, in sostituzione del proprio braccio sinistro, un gigantesco verme che provvede alle esigenze sessuali dell'eroe. Devastante, ho detto. Devastante ed inqualificabile. Ma Johnny Ryan non vuole soltanto scandalizzare ogni tipo di pubblico possibile. La sua azione controculturale ha più spessore di quanto si sospetti. Il suo disegno è volutamente brutto, infantile, apertamente ironico, e fugge ogni manierismo del segno underground di derivazione crambiana, che congelerebbe l'underground nello spazio-tempo degli anni 60-70. Johnny consegna la narrazione alternativa direttamente alla contemporaneità, una contemporaneità senza scampo, che può essere raccontata soltanto attraverso una furiosa, oscena danza autodistruttiva, come se la danza distruttiva di Shiva si trasformasse in pogo, un pogo orgiastico. Le ultime 10 pagine, infatti, sono l'ineluttabile esplosione dell'universo. Prison Pit, beh, non credo che me lo andrò a leggere. Comunque, bella come descrizione. Ed effettivamente un po' nichilista, forse, un po' poco cosmo anticapitalista. Intanto, tra l'altro, Malis, Andromalis, come dicevo, a parte essere un bravissimo illustratore e fumettista, è in generale un agitatore culturale. Seguitevi la sua nuova avventura che si chiama, che è anche quella, anche questa, una trasmissione radio che si chiama Planet Mongo. Un po' da cercarsela, un po' da seguire lui sui suoi social e capire quando va in onda. Sua e dei suoi compari, Simone Lucciola, Valerio Bindi, Oro Giacomini, Leo Magliacane. maglia cano. Quindi fondamentalmente grazie, anche se questo è il più strano che ci ha raccontato, ma tu Bimo non l'hai sentita, quindi no, non l'ho sentita. No, non mi puoi dire questo, non mi puoi dire che era il più strano e io non l'ho sentita. Beh, non tipo, puoi andare, però guarda, ti consiglio questa cosa, puoi andare sul da domani, puoi andare sul sito del Forte Prenestino.net, troverai esattamente il podcast e ti risenti tutto. Mi sento solo la musica e Andromaca. Solo quello, sì. Ti faccio un podcastino solo con le cose che ti mancavano. E poi così il condensato. Siamo sempre su Radio Forte, siamo sempre a Boca Chica Cosmodrome, puntata 6. Parliamo sempre di capitalismo spaziale e siamo sempre attivi sui nostri canali Telegram, dove ci potete raggiungere in qualsiasi momento. In questo momento no, perché il telefono è occupato con Bimo, però in generale iscrivetevi, perché in realtà sta diventando, è vero Bimo, se tra l'altro si è allargata la community. Sì, quanti siamo? Io ho perso il conto. Addirittura 15. No! Siamo 15. Ma sì, te sì, lo sì. Ricordi quando eravamo 3? Me lo ricordo. Mi ricordo quando eravamo 3 e quando pensavamo che saremmo rimasti 3, soprattutto. Quindi fondamentalmente c'è stato un salto di qualità. Cercavamo delle scuse. Sì, c'è stato un salto di qualità veramente mostruoso. Come, come ulteriore passo di quello che è questa ricerca di avanguardie cosmo anticapitaliste, ora tocca alla AAA, Associazione Astronauti Autonomi. Bimo, cosa ti dice questa cosa? Io diciamo ricordo che c'erano come delle luci con un altro gruppo che non mi pare fossero delle persone vestite di rosso, non lo so. Non lo so. Allora sì, c'erano come me l'hai piazzata sul piatto d'argento, come dire, insomma. Beh, parliamo sempre di controculture degli anni 90, sempre controculture che guardano allo spazio come momento di conflitto al capitale, ma anche come momento di riappropriazione e di creazione di spazi eterotopici. Quindi l'Associazione Astronauti Autonomi è esattamente questo, ed è molto simile alla chiesa del Subgenius da questo punto di vista, perché è sempre un'esperienza di tipo situazionista. Io tra l'altro ti volevo dire, Bimo, noi dovremmo fare una monografica sul situazionismo e sulla psicogeografia. Sì, io ascolterò più che altro, penso. Vabbè, no, ci prepariamo entrambi, però siccome ne parliamo tanto, ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando a proposito della A, ne parleremo tra poco a proposito dei MIR, però lasciamo sempre questa cosa, diciamo così, un po' in sospeso, diciamo, che cos'è il situazionismo, che è già qualcosa di un po' più noto, ma sicuramente andrebbe spiegato meglio, ma soprattutto che cos'è la psicogeografia, magari avendo pure l'ospite di qualche psicogeografo vero, insomma, a questo punto lo possiamo fare addirittura col collegamento telefonico. Vabbè, insomma, adesso funziona da Tallinn, funziona anche, che ne so, da Tortini a Tara. Assolutamente. Quindi Associazione Astronauti Autonomi, che si occupano, come si occupava anche la chiesa del Subgenius, di sabotaggio culturale in maniera molto meno lisergica e surrealista, con una pretesa anarco-marxista sicuramente diversa, ma la sostanza viene da quel tipo di tensione, il cosiddetto calcio del genere. Mi pare di ricordare, cioè, sì, lì c'è una contrapposizione, che poi è la contrapposizione che ricordavi tu, quella tra appunto gli astronauti autonomi e gli ufologi radicali, di cui ancora non abbiamo parlato, ma che in realtà, oltre a contrapporsi da un punto di vista di scenari e di prospettive, lo fanno anche tra biciclette e gli ufologi radicali prediligono le biciclette, mentre gli astronauti autonomi hanno sempre prediletto gli skateboard. Ma vabbè, insomma, questa cosa mi lacera. Lo so, tu sei a metà strada. Esatto, tu sei assolutamente a metà strada. Vabbè, insomma, comunque, diciamo, poi ognuno, non è detto che poi non si possano fare entrambe o che non ci si possa attaccare, come accade spesso con uno skate, ad una bicicletta, che generalmente è un mezzo più veloce certo. E più performativo. Il viceversa è un po' faticoso. È un po' più faticoso. Però è un po' più faticoso. Tecnicamente si può fare. L'Associazione Astronauti Autonomi deriva appunto dalle esperienze, quindi, psicogeografiche. Tenetela lì come cosa. Adesso faremo sicuramente una monografica sulla psicogeografia, però di tipo londinese, quindi dall'Associazione Psicogeografica Londinese in particolare. che si diffonde poi fino in Italia, arriva fino in Italia innestandosi su quella che è un'altra grande esperienza degli anni 90, che non ha, di cui non parleremo in maniera approfondita perché non ha nulla di cosmico, ma che è Luther Bliss Project, da cui derivano tantissime delle esperienze controculturali degli anni 90, e appunto gli Astronauti Autonomi sicuramente, o almeno nella loro come dire, nella loro fattura italiana, nei collettivi italiani che erano di Bologna, Latina, insomma ce n'erano un po' in Italia di questi collettivi, e che sono in parte, che è un'esperienza, Luther Bliss Project, che in parte riguarda anche il collettivo MIR dell'ufologia radicale, di cui parleremo tra poco, insomma. E sempre su questa strada il collettivo Wuming, che deriva sia dal Luther Bliss Project che transita per gli Astronauti Autonomi, arriverà poi di recente al Prolet Cult, di cui si parlava nella prima puntata di di Bogdanov Cosmodrom, con un romanzo che appunto è Prolet Cult, anche se in Bogdanov il Prolet Cult era una cosa un po' diversa, era questo amore che avevano tutti i russi dell'epoca per questi acronimi che significa la cultura e cultura proletaria, dove dietro c'è poi tutta quella polemica, grossa polemica con il suo collega Lenin, no? Che vede Lenin vincitore di cui non abbiamo parlato diffusamente. Sì, di cui abbiamo parlato diffusamente, su cui non assolutamente non torneremo. Sulle esperienze psicogeografiche di quelle poche che ancora rimangono in vita, io vi consiglio di andare a vedere il lavoro dell'APR, cioè dell'Associazione Psicogeografica Romana, che è molto interessante e che lavora su temi diversi da quelli della AAA, dell'Associazione Astronauti Autonomi, ma che hanno lo stesso tipo di matrice per quanto riguarda l'ispirazione e soprattutto l'approccio al territorio. Avendo lo stesso tipo di matrice, quindi parte il conflitto, vista la matrice. generalmente partendo da matrici simili, ma arrivando a conclusioni diverse, si formano generalmente fazioni tra loro in competizione per l'egemonia di questo piccolo territorio che è piccolissimo, insomma, ormai. Sì, le controculture e i movimenti. Vabbè, insomma, diciamo questo anche in maniera molto scherzosa, spesso e anche in maniera molto leggera, direi. Sì, più che, diciamo, sia più che scherzosa che leggera, io direi in maniera prolifica, nel senso che il conflitto evidentemente a sinistra è, come anche Marx lo sostiene, il motore della storia, è il motore anche di queste piccole storie di movimenti controculturali e di movimenti anticapitalisti. La A nasce col progetto di avere una storia quinquennale, quindi un progetto quinquennale, durare solo 5 anni. E durerà solo 5 anni, dopo i 5 anni infatti definitivamente morirà. E quello che è stato, se vogliamo, il suo merito principale è stato quello di smascherare l'ideologia della NASA come un'ideologia tutto sommato esoimperialista, no? Cioè come aver avuto l'intuizione che in realtà, essendo un prodotto intanto militare, il prodotto di uno stato per eccellenza imperialista e espansionistico, la NASA non è altro che una protuberanza di questa capacità e di questa volontà espansionistica, che è stata misurata all'epoca della A, ancora era misurata solo esclusivamente su quelle che erano le vicende della cosiddetta conquista dello spazio, no? Quindi conquista dello spazio, sì, mentre oggi invece, e soprattutto nelle prossime puntate, questo diciamo spunto verrà espanso molto, perché c'è molto da dire nel presente di questo ruolo della NASA. Assolutamente, sì, di questo ruolo della NASA, che diventa evidentemente più esplicito. E quello che fanno gli A all'epoca era in un momento un po' fuori dal, diciamo, meno sospetto, in cui appunto non esistevano ancora gli imprenditori spaziali, o comunque iniziavano ad esistere, ma erano solo esclusivamente dei freak, fondamentalmente delle strane eccezioni a cui nessuno credeva. E svelano quello che è il compito della NASA, di essere, come dicevo, un appendice di questa volontà, di questa capacità imperialista degli Stati Uniti, e altrimenti non potrebbe essere. Quindi la loro critica si muove tra il surreale, tra il serio e il faceto, proprio allo smascheramento di questo tipo di prospettiva. La loro prospettiva è un tipo, è una prospettiva di tipo invece immediatista, ovvero di accesso alternativo allo spazio con i mezzi di fortuna. Ricordo tra le loro pubblicazioni le astronavi rivestite di pellicciotto, un immaginario molto alla Barbarella, devo dire, se non che avessero prodotto molta iconografia, ma leggendo i loro scritti veniva fuori una cosa molto alla Barbarella, devo dire, insomma, tra l'altro che non è malaccio, che invece a me non piace. Stavo per dire. A me invece sì, invece lo accetto, infatti ti ho mandato litigheremo di Barbarella in una sei stato infatti già confinato a Tallinn per le tue opinioni, quindi stai attento a quello che dici, se non vuoi andare ancora più lontano uniformati, come dire, no assolutamente prossima fermata a Rovaniemi. no ma è assolutamente legittimo, l'idea è che per me è tutto un po' troppo fricchettone ed era infatti anche un po' troppo fricchettone la prospettiva degli A, anche se appunto mascherato in una maniera ironica una critica che era assolutamente seria e che ci porta alla riflessione, come giustamente dici tu Bimo, alle riflessioni dell'oggi dell'oggi e delle convivenze tra NASA e imprenditori neoliberisti che scopriremo nelle prossime eccezionali e avvincenti sì la NASA in questo momento è il babysitter degli imprenditori neoliberisti. Sì, è vero la Narseri, ma diciamo nella prospettiva degli AA appunto, quindi c'è non solo un tipo di critica teorica, ma ci sono anche delle pragmatiche. Intanto ci sono gli allenamenti psicofisici della A che propone questo progetto di calcio a tre porte, no? Questo gioco del pallone, del calcio, però giocato a tre porte in cui le alleanze sono variabili, appunto, no? Ogni squadra si può alleare con un'altra squadra contro la squadra rimanente, oppure ci si può alleare tutti e tre, quindi giungere a nulla di fatto. Insomma, diciamo, diventa un gioco molto psicocalcistico più che atletico, che evidentemente per gli A è un modo per affrontare le incognite dello spazio. E questo è interessante, no? Che dici, Bimo? Cioè l'idea, molto. L'idea che ribaltare una pratica così per noi così ovvia e così scontata in un gioco psicologico più complesso possa diventare un training necessario per affrontare quelli che sono le avversità di un ambiente ostile come lo spazio. Assolutamente. È una grande intuizione, devo dire, bello. Non ricordo esattamente adesso se in realtà il calcio a tre porte è un'invenzione blissettiana o della A, però insomma comunque la A ne fa un cavallo di battaglia insieme soprattutto a quelli che sono i suoi Rave Space, cioè un'altra attività specifica della A, degli astronauti autonomi, è quello di innestarsi all'interno della scena techno rave con una scena loro propria musicale fatta di varie sezioni, ha avuto sezioni un po' in tutti i continenti, un po' in tutte le nazioni, e ogni sezione generalmente aveva questa caratteristica di produrre musica techno e organizzare anche i cosiddetti rave in space, quindi molto calata nel suo presente come esperienza, che poi è un po' anche l'esperienza dei movimenti degli anni 90 che si incontravano con, no, che cominciavano a fomentare, si incontravano con l'esperienza rave, con gli illegal rave. Sì. E quindi la specifica esperienza degli... Dimmi. Persino il forte prenestino, sì, a un certo punto passò da una stretta ortodossia punk e da quel che leggo e da quel che sento, anche non in modo semplice tra l'altro, non fu una transizione, un passaggio indolore. Beh, questo è interessante, sarebbe stato bello avere qualcuno qui del forte, qui magari però più anziano, che sta più tempo qua a raccontarcela questa cosa. Mannaggia, tracce di questo dibattito sono nel libro di cui parlavamo, Detonazione. Ah, certo, Detonazione, che è un libro che parla delle controculture romane degli anni 90. Esatto. Per gli interessati, il dibattito sulla techno a Forte Prenestino si consuma di niente. Sì, si fa capolino in diversi degli interventi del libro. E beh, insomma, allora capaci più di altre controculture europee di coniugare, di giocare con la cultura pop dell'epoca, in questo veramente molto cultural jamming, e come dicevi tu, come anticipavi, in contrasto storico con un'altra avanguardia cosmo anticapitalista che è quella dei Mir. Io qui molto brevemente voglio ricordare solo la conferenza intergalattica della fine degli anni 90, mi faccio autopromozione, ho scritto da poco un articolo che ricorda questa cosa su Macchina di Deriva Prodi, sulla rivista di Deriva Prodi, per cui chi vuole approfondire ci può andare, perché ci trova esattamente il resoconto di quella interessante diatriba che si giocava tutta intorno a questo concetto, il microfascismo, cioè questo concetto del duo Deleuze-Guattari, e che in realtà vedeva contrapposte le due differenti approcci alternativi all'accesso allo spazio, quindi allo spazio extraatmosferico visto in maniera diversa, ma sempre visto come spazio di emancipazione, come spazio di ribellione al capitale. Insomma, tu che quali posizioni avresti preso tra le due? Guarda, è una bella lotta, perché immediatismo contro rivoluzione, contro cioè versus rivoluzione. Che tra l'altro avevamo già parlato di questa tratteggiato, e la posizione del Mir, malgrado il rifiuto degli skateboard, mi sembrava più a fuoco, diciamo. Quindi per una volta do ragione a voi, dai. Sacrosante parole, e andiamo con una citazione. Ciò che oggi può sembrare fantasia, domani sarà senza dubbio realtà. Questo è un racconto del futuro. Qui non esistono più nazioni o continenti, ma solo l'umanità. L'umanità e le sue colonie sparse nell'universo. Con una velocità oggi inimmaginabile, le astronavi percorrono la nostra Via Lattea. Sono pilotate da superuomini, addestrati a combattere senza esclusione di colpi. E questo era una serie che tu, Bimbo, non hai sentito, ma Le fantastiche avventure dell'astronave Orion. Conosci? No, mi manca. Beh, cavolo. Beh, sì, effettivamente è una serie molto molto di nicchia, solo 7 puntate dal 65 al 66, prodotta dalla Germania Ovest. Le fantastiche avventure dell'astronave Orion, che oggi però sono disponibili su YouTube, quindi le trovate, ve le potete vedere. Purtroppo una serie molto costosa, anche se fatta con quasi mezzi. Io mi sono divertito a fermare fotogramma per fotogramma, riconoscendo nelle console delle astronave ferri da stiro, oppure c'erano frullatori messi lì per simulare delle tecnologie del futuro. Fantastico da questo punto di vista, sono molto molto evidenti queste cose. Nonostante questi mezzi, viene da chiedersi dove abbiano speso i soldi. Per gli attori, che voglio dire, sembra la soluzione migliore. Guardatevi la serie e lo capirete, perché in realtà gli scenari, le scenografie sono molto belle, un po' americanizzata, un po' diciamo, evidentemente già le influenze di Star Trek si facevano, che del 66 si facevano vive, però in realtà si tratta appunto di una serie antichissima, quindi 65 prima di Star Trek, una serie antichissima di fantascienza, come dicevo, della Germania Ovest. E bella da vedere, tante belle soluzioni, forse un po', come dire, un po' massimalista la storia, che poi però non finisce perché tutte sono solo 7 puntate. Comunque poi ci sono delle scene fantastiche, ve ne carico una su ce n'è una memorabile, bellissima, ve la carico su Telegram, perché è assolutamente da vedere. Quindi in questi prossimi giorni vi carico questa scena, che secondo me è bellissima, tratta dalle fantastiche avventure dell'astronave Orio. Vabbè, ma detto questo, insomma, a un certo punto della sigla, io ho mandato la sigla, si dice che appunto nel futuro non ci saranno più nazioni, ma solo terrestri, uomini nello spazio. E questo è un po' perché sintetizza un po' quello che è stato il pensiero dell'Associazione Astronomi, di cui adesso ci andiamo a sentire un pezzo, dalla sezione francese della AAA, degli Associazioni Astronomi Autonomi, Join Us. The destiny of fairyland. The interpretation of dreams. Associazione Astronauti Autonomi. Questa era la sezione francese di un pezzo, penso di fine anni 90, adesso questa cosa non la ricordo esattamente, però insomma si sentono effettivamente tutte quelle che sono le influenze dell'epoca. Qui siamo sempre su Radio Forte, sempre a Boca Chica Cosmodrome, sempre in diretta da Radio Forte, appunto nei meandri del Forte, e alle leve e ai comandi di questa cosa, ai pulsanti di questa piccola astronave, ci sono Bimo e Cobol, eccoci. Bimo. Mentre Bimo non è, però, per una volta non è nei meandri, ma è nella città vecchia di Tallinn. Oh, bene, perfetto, come inviato. Io avrei una domanda a questo punto. Assolutamente. Avrei una domanda, ma se gli astronauti autonomi avevano la Tecno, i Men in Red con cosa rispondevano? Ci arriviamo, però prima di arrivare di nuovo alla contrapposizione, che li vedeva contrapposti anche musicalmente, è un'ottima domanda, perché effettivamente non avevo dubbi. I toni poi sentiremo che sono diversi, perché entrambe le organizzazioni avevano delle propaggini musicali. I Mir, diciamo, l'ufologia radicale molto meno, perché erano più ortodosso marxisti, meno interessati alla cultura popolare, come dicevamo, al pop, mentre invece gli astronauti autonomi più capaci di sporcarsi le mani con la cultura pop. Tant'è che poi in realtà gli astronauti autonomi non hanno prodotto grandi raffinate elaborazioni, però sono rimasti molto nell'immaginario anche attuale, molto più per esempio degli ufologi radicali, che invece avevano dei livelli di elaborazione teorica e di pensiero molto più raffinati, ma che evidentemente pagano meno dal punto di vista dell'essere celebri. E nel poco che hanno fatto musicalmente, nello specifico il collettivo dei Mir, che dopo sentiremo effettivamente, sì hai ragione tu, sono contrapposti sicuramente in atmosfere anche in quello. Ma io, prima di arrivare ai Mir, volevo soffermarmi sulla terza cultura cosmo anticapitalista di cui parliamo questa sera, di quelle degli anni 90, nello specifico sull'esercito zapatista di liberazione nazionale, strano a dirsi, le ZLN effettivamente, sì. Operante in Chiapas, sì, molto strano, ma in realtà parliamo infatti di un frammento della loro capacità di essere sulla ribalta mondiale e mediale, che è quella dei cosiddetti incontri intergalattici tra popoli zapatisti e popoli del mondo, di cui il primo risale proprio al 1996, quindi esattamente all'interno di quel periodo, che tra l'altro ispirò moltissimo, da quello che so, la nascita del collettivo Mir in generale, anche diede propulsione proprio questa idea degli incontri intergalattici, diede molta propulsione a quella in generale che era l'ufologia radicale, che già esisteva da un po' di tempo, perché l'ufologia radicale nasce all'inizio degli anni 90 nel movimento della Pantera, poi come diciamo più tardi si innesta, si incarna anche in quelli che sono i movimenti dell'Utter Beastie Project, però insomma la sua nascita è di molto precedente a tutte quelle che saranno le trasformazioni, diciamo in generale digitali, che poi porteranno al cultural jamming vero e proprio, appunto, degli astronautonomi, dei mili, insomma, diciamo che sono culture già più digitalizzate rispetto sicuramente alla Pantera. E quindi l'esercito zapatista, perché? Proprio per, appunto, per questa sua vocazione agli incontri intergalattici. Che cosa sono gli incontri intergalattici? Beh, insomma, intanto sono, prima di tutto, una concezione che in qualche modo prefigura la possibilità di un'estensione al di fuori della biosfera di quelle che sono le possibili alleanze. Quindi, diciamo, concepire anticipatamente, anche se in qualche modo i contatti non ci sono oggi, concepire anticipatamente la possibilità di entrare in contatto con popolazioni al di fuori della biosfera terrestre, ma mi sembra assolutamente diciamo lecito o logico e normale, un po' come è stato anche il posadismo da questo punto di vista, anche se poi in realtà non sì, ci sono infatti, continua a tornare assolutamente a tornare. Ma infatti, diciamo, rimaniamo nell'America Latina da questo punto di vista, e quindi evidentemente c'è un sostrato culturale che lega entrambe le manifestazioni da questo punto di vista, anche se parliamo appunto di manifestazioni molto diverse. La ZLN nasce in realtà marxista, addirittura marxista leninista, ma poi intraprende una strada più libertaria, quindi molto diversa dalla quarta internazionale dei posadisti da questo punto di vista. Però il sostrato, evidentemente il Messico, la Confederazione Messicana, evidentemente rimane in qualche modo un elemento che lega le due esperienze anche in una maniera così distante. E quindi sì, i zapatisti non tentarono mai di iniziare una guerra nucleare, no, o comunque sì o comunque non credo che possano essere favorevoli come poteva essere Posadas, diciamo, quantomeno. No, parliamo di livelli filosofici e approcci al mondo completamente diversi, stiamo solo evidenziando alcune come dire, a cui non vogliamo neanche dare tanto spiegazioni, se non una spiegazione tipo contestuale da questo punto di vista, de somiglianze, no? Somiglianze, perché anche il posadismo, che vede il mondo in tutt'altro modo, però rispetto al quarto internazionalismo europeo, introduce elementi esoplanetari molto interessanti e assolutamente inediti. Il posadismo, d'altro canto, in Europa è stato sempre visto come fumo agli occhi. In realtà ogni buon trotskista si vergogna di Posadas. si potrebbe rispondere con un'associazione posadista romana che diventa però introdurrebbe con la sigla introdurrebbe delle ambiguità, perché APR è già fatto. Sì, non solo, ma lo stesso MIR, come vedremo, in realtà è spesso stato scambiato per un'organizzazione posadista diciamo moderna, cioè contemporanea, quindi non degli anni 40-50. Non lo so perché in realtà ma guarda, in realtà, anche perché secondo me tutta l'esperienza quarta internazionalista in generale, adesso al di là del posadismo, in Italia non ha mai goduto di tanta fama, di tanta gloria, no? Nonostante poi Trotsky sia forse veramente l'unico proseguitore di quella che è l'esperienza realmente leninista, no? Arrivando a perderci la vita nel suo contrasto con Stalin, nonostante questo, in realtà tutta la quarta internazionale italiana non è mai stata vista da nessuno di buon occhio, forse per la sua specificità legata all'entrismo, che non so se è una cosa tipica del quarto internazionalismo italiano o se è una cosa del quarto internazionalismo mondiale. Su questo non mi sono più di tanto domandato, e forse questo entrismo, cioè questa strategia di entrare all'interno delle organizzazioni più grandi per poterle poi in qualche modo controllare o comunque deviare, ha sempre avuto sempre stata vista forse non tanto di buon grado. Io questo non lo so se tu hai notizie. Io in realtà più che altro ho aneddoti, nel senso che questo tipo di strategia che ha nella contemporaneità, indipendentemente dalle quarte internazionali, ma per esempio i radicali hanno, no? Questo tipo di e dentro nei radicali c'erano dei trotskisti, originariamente trotskisti, poi ovviamente convertiti ad altro. Quindi c'è effettivamente, probabilmente quest'idea è passata da un ambiente trotskista a ambienti liberali, poi liberali, sì. Però appunto è ancora viva in qualche modo, no? Quindi si può dire che una volta entrati nelle organizzazioni, invece di deviarle, sono stati deviati. Sì, esatto, è andata in tutto modo. Non è proprio come sono andate le cose, non, probabilmente mette un po' in discussione la validità dell'approccio. Sì, sì, quindi diciamo, sì, effettivamente, sicuramente la non buonissima fama, o comunque, ma più che la fama, diciamo in generale la storia del quarto internazionalismo italiano non gode così di tanta luce, proprio perché insomma ci sono delle ambiguità di fondo di cui noi non parleremo. Tra l'altro stiamo parlando delle ZLN, che con la quarta internazionale non c'entra assolutamente niente. Quindi io ritornerei sulle ZLN proprio per questa capacità prefigurativa, preveggente e comunque addirittura preorganizzativa, capace di immaginare per la propria politica e per il proprio modo di rapportarsi agli altri popoli, un modo di rapportarsi anche ai cosiddetti popoli extraterrestri. Io ho beccato sulla rete, nelle pagine zapatiste dedicate proprio al loro pensiero e che riportano i loro bollettini, un pezzo in cui in realtà loro parlano di questi, dicono perché hanno chiamato questi incontri intergalattici. Lo leggo: li abbiamo chiamati incontri intergalattici per fare gli spiritosi e perché avevamo invitato anche quelli di altri pianeti, che però non sono arrivati, o forse sono venuti ma non ce l'hanno fatto sapere, e mi sembra giustissimo. E quindi si guadagnano in questo modo assolutamente un posto all'interno dei cosmo anticapitalisti, anche perché nel 2012 l'artista Rigo 23 ha raccolto tutta una serie di artisti indigeni messicani vicini alla cultura, al movimento zapatista, e insieme hanno realizzato nella galleria di Los Angeles, di cui non ricordo il nome, una mostra che si chiama Autonomous Intergalactic Space Program. E in realtà sono state costruite delle astronavi con colori e manifatture che sono poi tipiche delle culture indigene e che si mescono poi a temi futuristici e tradizionali locali. E quindi diciamo questa esperienza in realtà spaziale è molto più forte, evidentemente questa esperienza intergalattica è all'interno di queste culture. Non voglio spingermi sul realismo, sul realismo magico, ma insomma diciamo forse evidentemente più sentita e molto più forte anche delle metafore messe in campo per nuclearla, per spiegarla, no? Che poi in realtà sono metafore di apertura, di estrema apertura rispetto al possibile, poi fondamentalmente, un possibile che è capace di guardare, sì, anche oltre la biosfera, e in questo, insomma, per questo si guadagnano un posto tra le culture cosmo anticapitaliste. Assolutamente, anche se in questo specifico, in questo spicchio, in realtà noi quest'anno abbiamo vissuto, in questi 2 anni, se non sbaglio, la cosiddetta gira zapatista, cioè questa bellissima iniziativa zapatista di questa nave, appunto partita dal Messico e arrivata addirittura il 12 ottobre in Italia, se non sbaglio dovrebbe essere proprio il 12 ottobre, che in qualche modo ci rimette sui passi di questa vocazione al viaggio interplanetario, no? Nel senso, l'idea originaria è proprio quella di percorrere un viaggio a ritroso rispetto al viaggio di Cristoforo Colombo, quindi a ritroso anche nelle intenzioni non più espansionistiche del vecchio continente, no? In qualche modo questo modo metaforico di tornare indietro col nastro, se vogliamo, ad opera degli zapatisti, con questa iniziativa, con la gira zapatista. Però in realtà c'è anche tutto lo spirito di un viaggio interplanetario vissuto su una nave, un po' di fortuna, con un equipaggio preparato ad hoc, un po' come se fosse effettivamente stato un viaggio spaziale, un equipaggio. Beh, in qualche modo I pianeti che sono stati, la situazione di partenza e quella di arrivo, alla fine un po' due pianeti diversi sono. Assolutamente, sì, quindi è un viaggio interplanetario a tutti gli effetti. Tra l'altro loro, la comunità che è partita, i cosmonauti, che sono i cosmonauti zapatisti che sono partiti, si erano isolati molti giorni prima, proprio per via della pandemia, per essere sicuri appunto, tra l'altro. Quindi anche questo fatto di essersi isolati, questo fatto di aver... Eh vissuto un momento così, come dire, di preparazione psicofisica, ci riporta molto alla... c'è una citazione molto interessante del subcomandante Galeano, che io ho sempre trovato appunto sulle liste zapatiste, che parla del suo film di fantascienza preferito, tra l'altro. Il film è uno di noi, quindi. Esatto, il suo film preferito è L'astronave dei mostri, film bellissimo, non so, tu l'hai visto, Bimo? Non l'ho visto. Film trash, a questo punto lo devo vedere. Sì, film trash fantascientifico degli anni 60, messicano, in cui trova posto anche una figura orribile, che è quella del piporro. E purtroppo non te la posso far sentire a te, ma la posso far sentire a chi ci ascolta, e quindi andiamo con questa fantastica citazione. Vai. Ascoltatemi, prigionieri. Ho qualcosa da dirvi. L'astronave con la quale siamo partiti è in riparazione, ma presto saremo in grado di riprendere il nostro viaggio per Venere. Non vogliamo tornare su Venere. Eravamo uomini liberi nella galassia e abbiamo diritto alla libertà. Io devo obbedire agli ordini del Consiglio. Rimarrete ospiti di Venere. Ospiti? Niente storie. Tu stessa ci hai chiamato prigionieri. L'ospite è sacro e voi avete avuto il coraggio di sequestrarci e di congelarci. Io, Tau, al principe di Marte, non ti perdonerò giammai. Neanche io. Io, re del pianeta del fuoco, voglio essere libero, come tutti. Io, Utir, gran sacerdote del pianeta rosso, divorerò le vostre viscere, stritolerò i vostri cuori quando vi avrò il mio potere su Utari, il pianeta della mia gente. Con quale diritto ci avete privato della nostra libertà, voi che ancora non sapete controllare l'atomo? La mia razza perdette la materia, ma siamo sempre in vita nonostante il nostro aspetto. Vi avverto, il nostro potere può essere terribile. Ridateci la libertà che ci avete tolta e non vi faremo niente. Su Venere sarete tutti liberi e felici. No, adesso. E io resto sempre allibito quando sento pezzi presi dall'astronave dei mostri del 1960, film di fantascienza messicano, sembra irreale. Tu, Bimo, non l'hai sentito, ma in realtà i dialoghi sono totalmente irreali. Ma anche questo, di fare un pacchettino in cui ci metto anche il piporro e i mostri dell'astronave dei mostri. Beh, forse è il film che va nella sintesi. Sì, assolutamente, sì, nella sintesi che ti spedirò. Assolutamente, forse il film preferito del subcomandante Galeano, proprio per questa citazione che ho inserito, in cui i mostri rivendicano il fatto di essere, tra virgolette, questo vuol dire, uomini liberi, in quanto sono stati rapiti da due caucasiche venusiane e poi per un problema ai motori del razzo sono dovuti atterrare sulla Terra, e queste caucasiche venusiane si innamorano del piporro messicano. È inevitabile. Esatto, ma insomma, diciamo, ecco, questa è un po' la trama lisergica, assolutamente psicotronica del film. Guardatevelo, perché è una cosa che non ci si crede. E il comandante subcomandante Galeano sviluppa tutta una sua riflessione sulla fantascienza, dicendo che appunto il suo film preferito di fantascienza è questo, e lui è quello che è, ed è all'interno probabilmente dell'esercito zapatista anche grazie a questo film. Quindi un film importantissimo dal punto di vista di chi, esatto, di chi segue la storia, o chi appunto vede negli zapatisti, come tanti di noi, tanti movimenti, un piccolo faro. E quindi io vado con un pezzo che dopo Bimo ti racconto. Stellos con il pezzo El Pollito dall'album En Orbita, e lo dovevamo fare prima o poi, lo dovevamo mettere, quindi a proposito delle ZLN, sì, album del 69, molto molto iconico, molto molto bello. Posso, c'è una comunicazione di servizio che probabilmente tu non puoi vedere perché il telefono è impegnato a fare qualcos'altro. Sì, ci dicono su che si sente male da un po'. Ah, che cosa si sente male? La radio. Ah, la trasmissione. Non sembra, dice che si capisce male. Questo te lo dico, diciamo così, in diretta, perché appunto manca un canale non in diretta. Ah, no, certo. No, fai bene a dirlo, ma non ho, da qui non ho proprio il modo di ovviare, quindi perdonateci, andiamo avanti così, ovvieremo la prossima volta, diciamo. In questo momento purtroppo non qui funziona, poi apparentemente funziona tutto come deve funzionare, quindi non saprei. Vabbè, comunque andiamo avanti. Cioè, siamo sempre, diciamo, apriamo con questa comunicazione di servizio, siamo sempre su Radio Forte, sempre a Boca Chica Cosmodrome, e se parliamo sempre di capitalismo spaziale, lo facciamo però attraverso le culture cosmo anticapitaliste. Questo è importante perché siamo alla seconda puntata di questa di questa sezione della storia del capitalismo spaziale, quello che parte dagli anni 80 e finisce negli anni 90. Abbiamo, in una puntata precedente, abbiamo parlato della colonizzazione, appunto, del capitale in questo ventennio, e adesso lo facciamo narriamo di quelle che sono le culture cosmo anticapitaliste, insomma. E ultima cultura cosmo anticapitalista di cui vogliamo parlare è quella dell'ufologia radicale. Ufologia radicale che finalmente ufologia radicale che poi si incarna nella maggior parte delle sue manifestazioni nel collettivo MIR, Men in Red, collettivo romano di ufologia radicale, in contrasto in realtà a partire dalla seconda metà degli anni 90 con tutto il resto del network nazionale, impegnato come in parte gli AA su tematiche, appunto, come dicevamo, prettamente extra atmosferiche. Ma mentre gli AA, appunto, sono un collettivo, una modalità di pensiero, un movimento che deriva soprattutto dalle associazioni psicogeografiche inglesi, l'ufologia radicale è un prodotto, come dire, non strano, nasce appunto, come dicevo prima, all'interno della Pantera, e poi si innesta con quelli che sono i movimenti soprattutto dell'Utopia Beast Project, ma anche con ufologi marxisti come Ivano Merz, che è considerato un po' il fondatore di questa pratica. L'ufologia radicale vede l'UFO come l'oggetto sostanzialmente irriducibile alle pratiche di identificazione, di sussunzione e di valorizzazione del capitale. Per questo l'avevamo già detto anche nella puntata monografica, che ti ricordi, Bimo, la puntata monografica che abbiamo fatto sull'UFO, no? Sì, infatti mi riferivo a questo prima. Assolutamente, cioè l'UFO ha senso, l'UFO al singolare, non gli UFO, ma l'UFO al singolare ha senso, io credo, solo esclusivamente visto in questo modo, cioè visto come un oggetto riducibile alla pratica di sussunzione del capitale, a cui aggiungiamo anche la caratteristica della non identificabilità, appunto, oggetto volante non identificato. E come dicevo prima, i zapatisti andavano anche oltre, in realtà, loro sono andati oltre, nel senso che parlavamo della manifestazione dell'UFO, che tipicamente erano delle luci, no? Delle luci che non, sì, però non lasciano trasparire nient'altro. I zapatisti sono andati ancora oltre, perché non ci sono neanche le luci. No, è vero, c'è solo la tensione. Esatto, oltre, cioè, l'UFO, ma veramente UFO, nel senso che è assolutamente impercettibile. Assolutamente, hai ragione, è vero, è un salto che non avevo pensato, un salto di qualità ulteriore, ancora più fantasmatico, quindi ancora meno identificabile da questo punto di vista. Esatto. E allora, dicevo che gli ufologi radicali spesso sono scambiati per dei posadisti, perché hanno, però in realtà le due posizioni, gli ufologi radicali giungono alle loro posizioni in una maniera completamente autonoma rispetto al posadismo, quindi questo è molto interessante. La differenza lieve è semplicemente quella che il presupposto è quello che se gli UFO di oggetti volanti, cioè gli oggetti volanti identificati, se di alieni si tratta, in realtà sarebbero giunti fino al nostro pianeta dopo aver superato una serie di contraddizioni sul loro pianeta, che avrebbe portati a sviluppare una tecnologia grazie alla cooperazione sociale pacificata, in qualche modo, una cooperazione sociale non sottoposta al regime competitivo del capitalismo, avrebbero sviluppato una tecnologia capace di fargli in qualche modo superare le grandi distanze che dividono qualsiasi esopianeta dal pianeta Terra. E che quindi fa dei ipotetici alieni degli alieni comunisti, sociali, o comunque socialisti, o comunque transitanti verso il comunismo. E questo è un dato che assomiglia molto al posadismo, ma che nel posadismo non è così evidente dal punto di vista della riflessione sulla tecnologia messa in campo. Lì c'è una riflessione. Si potrebbe dire che la vera innovazione tecnologica che ci manca è l'abolizione dello sfruttamento. Questo è il sì, la quello che sfruttamento. Non è un nuovo tipo di motore, non è un nuovo tipo di niente, è proprio una questione di fondo che dobbiamo superare. E anche quella della redistribuzione, sicuramente, redistribuzione di ricchezza, esatto. Perché in ogni caso, come dire, la transizione al socialismo e poi al comunismo prevedono in entrambe le, per esempio, in entrambi queste filosofie prevedono comunque, ovviamente, non la dismissione del ciclo produttivo, come anche in Marx, come anche nel socialismo, nel comunismo e nel marxismo tradizionali. Non è che non si arriverebbe mai a una rottura rispetto al processo di produzione, ma a una sua. Qualcuno deve spiegarlo alla NASA. A una sua completa. Il loro tempo. Sì, ha una sua completa ridefinizione, sostanzialmente è una sua più giusta redistribuzione del plusvalore prodotto, del valore prodotto. E una delle idee interessanti del MIR è quella che si lega un po' alla cosiddetta scommessa di Pascal, ovvero se esistono e sono qui gli alieni, vale la pena mutare il pianeta per entrarci in contatto. Questo lo dicevamo prima anche a proposito del posadismo. Se non ci fossero, se questi UFO non fossero alla fine effettivamente degli alieni, noi avremmo comunque mutato le condizioni sociali del nostro pianeta per entrarci in contatto, e con questo avremmo comunque migliorato quelle che sono le condizioni, rivoluzionate quelle che sono le condizioni del nostro pianeta. È un po' una sorta di scommessa di Pascal, nel credere che gli UFO possano essere anche degli alieni, ci si guadagna sempre da questo punto di vista. Un altro, un'altra idea tipica, un altro motto tipico dell'ufologia radicale è quella della lotta alla cosiddetta spectrofologia, cioè all'ufologia borghese, che in Italia negli anni 90 era molto molto più forte di quello che è stato oggi. Negli anni 90 si è vissuta sostanzialmente un revival dei fasti degli anni 60, degli anni 70 nel campo ufologico, e quindi in qualche modo l'uscita allo scoperto degli ufologi radicali è anche significato contrapporsi a quella che era una dominante egemonica della cultura borghese di quegli anni, rappresentata appunto dall'ufologia dei gruppi del CUN, soprattutto del CISU, che sono i due gruppi ufologici nazionali più importanti, che hanno connivenze ininterrotte con le forze dell'ordine e con l'esercito soprattutto, che quindi sviluppano la loro attività e la loro ricerca in tandem con l'esercito e con le forze dell'ordine. Questo insomma la dice lunga su quello che è la ricerca ufologica nazionale italiana e in generale nel mondo. Quindi insomma uno spettacolo ufologico direi demoralizzante quanto alieni ci danno polizia. Esattamente. Tant'è che il loro motto a un certo punto diventa UFO al popolo, che è un molto populista, non populista nel senso in cui è inteso oggi il populismo, forse più populismo russo, cioè vicino al popolo come tendenza, che poi verrà ripresa da un'altra cultura tipicamente cosmo anticapitalista, che tratteremo però più avanti perché è più recente, fa parte del nuovo secolo, che è quella adottata dal come definirlo? Dal documentario, ma che poi è diventato quasi un manifesto politico, dello Space Metropolis, che parla di Luna al popolo. Non abbiamo già accennato un documentario che è stata un'avventura vissuta all'interno della occupazione abitativa del Metropolis qui di Roma, di cui non parleremo adesso, ma insomma una occupazione abitativa sui generis, molto molto molto molto interessante, anche al di là dello scopo per cui nasce, quindi della sua funzione sociale, anche per come in realtà ha portato avanti la propria lotta e con le innovazioni che nella propria lotta ha portato avanti. Un po' intergalattica anche lei. Beh sì, per quello ne stiamo parlando in questo esattamente in questo frangente, proprio perché è sicuramente intergalattica e sicuramente cosmo anticapitalista. E una citazione da per i Men in Red. Questa sera su Italia 1, dopo X-File, va in onda il primo dei quattro speciali realizzati da Studio Aperto e condotti dal nostro direttore Mario Giordano, speciali dedicati a quei fatti e quelle storie che vivono al limite tra razionale e irrazionale. In questa puntata si parla di UFO, ecco un'anticipazione. Si fanno chiamare MIR, Men in Red, sono i collettivi dell'ufologia radicale, frequentano i centri sociali di Roma, Milano, Bologna. Il loro manifesto prevede l'incontro con l'extraterrestre, ma è un incontro tra marxisti e marziani. Il loro slogan è UFO al popolo. Gli alieni non sono questi pupazzi, ma sono l'occasione di trasformare il nostro pianeta in qualcosa di completamente diverso. Salvare la Terra dal capitalismo, una lotta che li vede contrapposti anche alla cosiddetta ufologia borghese, che riduce l'extraterrestre ad un fenomeno da baraccone. Crediamo che queste luci che spesso appaiono nel cielo sono dei segnali che alcune fazioni extraterrestri mandano nei terrestri per indicarci che è possibile fuoriuscire dall'orbita del capitalismo che attanaglia il nostro pianeta come un virus letale. UFO al popolo. E questi erano i Men in Red in un documento che io ho trovato sulla rete, su YouTube, di un'intervista rilasciata a Studio Aperto. Addirittura Studio Aperto dell'inizio del 2000, che si interessa delle culture antagoniste. Allora, qui si aprirebbe in realtà un dibattito immenso, cioè erano così interessanti i Men in Red, c'era così poco da dire, per cui alla fine un telegiornale, anche se a tutti ci viene i brividi a pensare al telegiornale come Studio Aperto, ma comunque un telegiornale poteva occuparsi di queste cose, oppure gli anni 90, 2000, inizio 2000, erano meno, come dire, meno come dire, un po' più sognatori, un po' meno cinici, come direbbe Fischer, no? Da questo, da questo punto forse di vista. Forse è l'ultima che hai detto. Sì, diciamo un po' meno cinici, per cui anche un fenomeno controculturale diventa sicuramente un oggetto, come dire, che poi diventa valore all'interno delle mani del capitale, però che diventa in qualche modo consumabile, interessante da esporre. E i Mir si sono esposti evidentemente a questa, come dire, a questo compromesso, perché la loro scelta rispetto al resto del network dell'ufologia radicale era quella di uscire fuori allo scoperto e portare, far rendere visibile una serie di contraddizioni tipiche sia del capitale che dell'ufologia borghese. Quindi interessante, assolutamente interessante il documento. Tra l'altro si sentiva nel sottofondo, si sentiva musica, una musica che era quella di Mir, quindi che poi adesso tra un po' che a questo punto dobbiamo sentire anche noi. Assolutamente, la voce che sentivate io non la sentirò, no, però, tu non la sentirai, messo dalla parte degli ascoltatori. Se ammesso che qualcuno stia continuando a sentire qualche cosa, perché le notizie che tu mi davi, sembra che l'emergenza sia rientrata. Ah, sia rientrata, tutto adesso, fanno tutto le macchine da sole. Bene, ne sono molto felice. Io sento che arrivano dei messaggi al mio telefono, che però sta da altra parte perché è in contatto con te, ma vabbè, se sono cose che riguardano la trasmissione, comunica. No, diciamo che adesso il consenso è che si sente bene. Benissimo, benissimo. Noi siamo sempre qui, quindi, su Boca Chica Cosmodrome, stiamo parlando di capitalismo spaziale, lo stiamo facendo attraverso le controculture, quindi contro le culture cosmo anticapitaliste. Cioè quelle culture che nello spazio, a differenza del capitale che vede appunto nella dimensione extrasmosferica una opportunità di creare valore, vedono un'opportunità invece di combattere il capitale, ma anche di trovare spazi eterotopici, cioè spazi di indipendenza e spazi su cui in qualche modo ricominciare, no? In qualche modo ricreare quella che è la cultura, cultura umana, cultura terrestre, in un altro ambito, con limiti diversi, con vincoli assolutamente diversi, con opportunità assolutamente nuove. E creare un altro tipo di valore, diciamo. Creare contropotere. Sì, creare contropotere sicuramente. Io ricordo, come lo dicevi tu prima, che parte di questa storia che abbiamo raccontato si trova su questo libro, Detonazione, che noi ricordavamo due puntate fa, è stato presentato tra l'altro qui al Forte, appunto Detonazione, che parla delle controculture degli anni 90, nello specifico a Roma, ma ci rientra gran parte delle controculture anche poi italiane, nel senso che anche le culture romane sono state a volte dei reverberi, a volte dei propulsori anche per le controculture nazionali, quindi insomma ci si trovava dentro un po' di tutto, specificatamente però legate alle controculture romane. Per quello che riguarda però invece Astronauti Autonomi e Mir nello specifico, sull'archivio Grafton 9, lo ripeto, Grafton 9, cercate Grafton 9 su un qualsiasi motore di ricerca vi uscirà, troverete sia le riviste degli anni 90 Mir degli ufologi radicali, sia i due libri, quello degli Astronauti Autonomi, Anche tu astronauta, e quello degli ufologi radicali, Ufologia radicale, contatto autonomo con gli extraterrestri, che sono stati scansionati e messi gratuitamente online per poterli consultare. Sono assolutamente interessanti, quindi ve li straconsiglio. Io ti dico, Bimo, secondo me questa puntata sulla psicogeografia dobbiamo farla, perché anche i Mir hanno delle radici nel situazionismo, nella psicogeografia. Soprattutto nella psicogeografia ha le radici quello che poi è un fenomeno di cui adesso accenneremo, ma che di cui parleremo sicuramente nelle prossime puntate, perché più recente, rispetto, anche se nasce alla fine degli anni 90, però si sviluppa soprattutto all'inizio del nuovo secolo, che è quello dell'ufociclismo. E a questo proposito per forza che ha una radice fortemente psicogeografica, anche se poi viene superata. Quindi io ti direi che secondo me forse addirittura la prossima puntata potrebbe essere, ma poi capiamo, una monografica di Bogdanov Cosmodrome, tutta sul situazionismo e la psicogeografia, ma poi insomma ne parleremo, tanto comunque poi informeremo le persone, informeremo chi ci segue, i compagni che ci seguono sulle nostre intenzioni. Comunque la faremo sicuramente, che secondo me è un'esigenza forte, perché stiamo parlando di concetti pregni. Tenteremo di e tenteremo di espandere la psicogeografia agli spazi extraatmosferici. Quello sì, quello con l'UFO ciclismo lo faremo sicuramente. Esatto. Io proprio perché stiamo accennando, ma poi ne riparleremo, all'UFO ciclismo, voglio salutare qui la ciclofficina del Forte, sempre attiva, sempre in prima linea e sempre aperta i giovedì pomeriggio, lo ricordo, sempre aperta il giovedì pomeriggio e la prima e la terza domenica del mese in concomitanza con i Terra Terra, in cui appunto c'è appunto la ciclofficina popolare di Forte Prenestino, a cui che è un ulteriore, come dire, laboratorio che il Forte mette a disposizione di tutti coloro che lo frequentano, che lo amano e in cui si sviluppa parte anche della cultura ufociclistica contemporanea. Insomma, però ne parleremo meglio a venire, insomma, proprio e lo faremo come dicevo, secondo me, dopo una ripassata, una stratificazione su quello che è la psicogeografia, perché insomma stiamo dando per scontato che invece, come dicevo prima, sono termini un po', sia situazionismo che psicogeografia, termini un po' pregni che andrebbero sicuramente spiegati, perché poi in realtà attraversano un po' tutte quelle che sono le culture cosmo-anticapitaliste, che quindi non possono essere dati per scontati. Insomma, poi ne parleremo, Bimo, poi mi dirai anche tu se sei d'accordo. Assolutamente. Allora, io vi faccio sentire un'ultimissima citazione di Militant X e poi torniamo qui su Boca Chica per sentirci un pezzo a questo punto dei Mir, che era la band legata all'omonimo collettivo. Beh, intanto sentiamoci la citazione, che è una citazione di Militant X, che era un po' una delle guide del collettivo Mir, che si esprime a proposito di un'intervista recente, si esprime a proposito di Space Metropolis. Ogni volta che un essere umano osserva un oggetto non identificato in cielo, e dietro quello che è appunto soltanto un oggetto non identificato intravede o tende a riconoscere una forma di vita extraterrestre, sta già sognando la possibilità che si dia in qualche parte dell'universo un modello di organizzazione sociale completamente diverso dal nostro. Un modello sociale completamente diverso dal nostro, ispirato da civiltà ipotetiche, civiltà aliene. Ecco, questa insomma era anche una delle caratteristiche dell'ufologia radicale. E per chi fosse appunto interessato appunto ad approfondire, quindi ci sono i due manuali sia della A che del MIR, dell'ufologia radicale, online, e anche le riviste bellissime d'epoca da spizzarsi, da andarsi a guardare per approfondire appunto un po' di cultura cosmo anticapitalista. E appunto dicevo, un'intervista di Militant X rilasciata per il documentario di Space Metropolis a cui accennavamo. Space Metropolis, appunto, ulteriore esperienza cosmo anticapitalista di cui parleremo però nelle puntate a venire. A questo punto ci sentiamo finalmente, per te, per la tua felicità, Bimo, così capirai le differenze. Purtroppo. Esatto, capirai le differenze tra l'approccio musicale degli AA e quello dei MIR. Appunto, un pezzo però un po' più recente, del 2004, dei MIR, che si chiama Tester. pezzo notevole quello che sentivamo, è Mir, il gruppo legato all'omonimo collettivo di ufologia radicale Men in Red. Qui siamo sempre su Boca Chica Cosmodrome, sempre sulle frequenze di Radio Forte, sempre nei meandri di Forte Prenestino, e ci stiamo avviando in realtà alla chiusura, Bimo, perché sono quasi passate 2 ore e io tra l'altro mi è venuta una fame mostruosa, non so perché, un buco allo stomaco, allora devi andare a mangiare, e quindi devo andare a mangiare perché anche tu dovrai, devi andare a spendere questi soldi di Radio Forte in qualche modo, così. esatto, quindi sì, io però assolutamente in maniera antispecista, perché ci tengo a dirlo. E no, vabbè, diciamo, al di là di tutto, due pezzi molto diversi, tu non l'hai sentito, ma insomma due pezzi molto diversi, no, tra quelli del Mir e quelli della A, ma d'altro canto la A molto più techno, Mir molto più ambient se vogliamo, ma d'altro canto tra i due pezzi ci passano anche quasi 10 anni, comunque un pezzo notevole, bello, appunto l'esperienza musicale anche dei Mir, un po' più, come dicevo, un po' più episodica rispetto a quella della A, che invece ne fa proprio una cifra stilistica il fatto di produrre musica e rave in space, insomma puntata ricchissima, devo dire, di informazioni, di note, di promesse, soprattutto promesse per puntate a venire, e diciamolo un po', allora cosa avverrà nelle prossime puntate? Adesso abbiamo chiuso un po' il ciclo storico di racconto sul capitalismo spaziale, e quindi diciamo abbiamo chiuso la prima parte, e quindi ci addentriamo dalle prossime puntate e cominceremo ad entrare in quella che è la contemporaneità, quindi Bimo, imprenditoria, nuove tecnologie, vettori riutilizzabili, imprenditori un po' folli, progetti di terraforming all'interno degli stessi piani aziendali, e New Space, quindi modo specifico della diciamo, come dire, del neoliberismo americano di andare nello spazio, e soprattutto l'entrata in scena della Cina, e ma anche la proiezione extraplanetaria della talassocrazia. Suona bene, Non l'ho capito, ma poi me la spieghi, la vuoi ripetere o vuoi specificare? Ma no, questo era così, arriverà al momento giusto, e sarà chiarita. Va benissimo. E soprattutto noi sappiamo una delle ennesime promesse. Cosa? Una delle ennesime promesse di questa puntata. Ne abbiamo fatte decine nelle puntate precedenti, anche io particolarmente. No, dicevo, e tutto questo, tutti questi razzi riutilizzabili, tutti questi progetti di stazione spaziale, noi sappiamo già che non ci porteranno da nessuna parte, perché il problema, come dicevamo oggi, è un altro. Ah, ok, va bene. C'è un'altra cosa che noi dobbiamo superare. Ah, sì, va bene. Prima. Certo. Vabbè, sì, certo. Beh, sì, l'antica polemica, ritorniamo all'antica polemica astronauti autonomi versus ufologi radicali. Esatto. Sì, forse è una polemica che non si è spenta, ed ha ragioni. D'altro canto, io ti accennavo al fatto che probabilmente nel 2022 ci sarà una ripresa molto forte dell'interesse verso l'ufologia. Sì. Ne parleremo più forse nelle prossime puntate, perché ha a che fare con un'altra promessa. Lo accenno solo per dire che in realtà forse a questo punto sentiremo un po' la mancanza dell'ufologia radicale. Ci vorrebbe un po' di ufologia radicale a questo punto, se è vero che l'ufologia entrerà nelle stanze del potere, così come sembra che si stia delineando la faccenda del potere neoliberista statunitense soprattutto, beh, allora forse sarebbe il caso che qualcuno risvegliasse gli ufologi radicali e che li mettesse di nuovo a produrre analisi, no? A produrre analisi sullo specifico. Sì. Sullo specifico. Assolutamente, non penso verranno convocati. No, diciamo, però ci sono gli ufociclisti che si occupano di cose simili, proveremo con loro, proveremo a girare l'istanza politica agli ufociclisti, vediamo che succede, esatto, vediamo che ci dicono. Esatto, allora, come la vedono. Allora, siamo ai saluti, che però sono sempre i saluti un po' alla romana, facciamo prima i saluti e poi mandiamo delle altre cose. Allora, intanto salutiamo, ringraziamo Forte Prenestino, ovviamente, un posto assolutamente di libertà, dove appunto si può sviluppare anche una radio come questa, è una trasmissione come questa che non terrebbe ovviamente spazio da nessuno. nessun'altra parte in assoluto. Non penso. Quindi Forte Prenestino, con i suoi spazi e con i suoi laboratori, per tutto lo sforzo messo in campo per tenere aperta questa eterotopia che è Forte Prenestino, all'interno della quale c'è un'ulteriore eterotopia che è Radio Forte, che ringraziamo perché noi siamo prodotto di Radio Forte e nasciamo. E all'interno della quale c'è un'altra eterotopia che è Boca Chica Cosmodrome, all'interno della quale c'è un'altra eterotopia che è Bogdanov Cosmodrome, cioè una scatola, esatto. Una roba di matriosche infinite. Ringraziamo soprattutto anche chi ci ascolta e che ci segue, il canale Telegram, lo ricordiamo. Ricordalo tu, il canale Telegram, su questo sei bravo. Sì, anche su altre cose sei bravo, eh. Però diciamo è una cosa che storicamente ho affidato a te. At Boca Chica Cosmodrome. Iscrivetevi perché settimanalmente ci sono un sacco di chicche carine, un sacco di approfondimenti che arrivano e cose. Vi devo mettere, anzi, me lo ricordo, adesso me lo segno. Vi devo postare la cosa relativa all'astronave Orion, una cosa bellissima. Spero apprezzerete l'umorismo di questa cosa. Io vi ricordo che. Dimmi. Dicevo, io ho postato una foto della cosiddetta notte estone che in realtà sembra per una qualche ragione che non capisco un tardo pomeriggio perché è luminosissima, non riesco a capire perché dovrebbe essere veramente oscura in questa stagione, ma invece non lo è. I potenti mezzi di Radio Forte che addirittura, esatto, riesce a postare in diretta una foto dei cieli estoni sul una cosa incredibile. Esatto, io ringrazio il Forte di questo. che ti ha mandato come avanguardia, esatto. Allo scoperto, a scoprire nuovi posti da rendere eterotopici. Sì, e io e i camerieri dei bar dell'Anguola. Benissimo. Allora, io ricordo che i podcast di tutte le puntate, siamo arrivati alla sesta puntata di Boca Chica Cosmodrome e alla prima puntata di Bogdanov Cosmodrome, quindi sono sette puntate a questo punto, le trovate sul sito del Forte, forteprenestino.net, che è anche il sito della radio. Schiacciate sul pulsante del navigatore sulla radio e dentro ci trovate sia i palinsesti di messa in onda, sia le altre fantastiche trasmissioni che quotidianamente vengono prodotte dentro a Radio Forte e che tante altre sorprese, insomma, i podcast passati di questa neonata radio che ha poco più di un anno a questo punto e che in realtà si dà tanto da fare e che produce tanto. Salutiamo quindi anche chi ci ascolta in FM, lo ricordiamo, e nella una ristretta zona intorno al Forte. Vi lasciamo però, vi lasciamo nel senso che poi ritorniamo dentro perché ho una domanda da fare a te, Bimo. Sforiamo questa volta le due ore di poco, ma ho questa domanda da farti. Intanto mando la citazione che tu non sentirai, poi te ne parlo. Ci diciamo due cose e chiudiamo davvero, perché sono i saluti alla romana, e via con la citazione. Senti, perché hai detto che sto sbagliando tutto? Ah, beh, niente, così. Ecco, per esempio, quando mi hai fatto salire a casa tua, che stavi studiando? Io ti ho fatto salire. Nullità e annullabilità degli atti processuali. Ecco, lo vedi, a che serve? Scusa, sarà roba di 100 anni fa? Anche di 1000. E meglio ancora. Io capirei, non so, studiare diritto spaziale. Diritto spaziale? Certo. Due astronavi si scontrano. Chi è che paga? No? Oppure, i terreni sulla Luna si possono lottizzare? Hai capito? E allora, i terreni sulla Luna si possono lottizzare? Sarà il caso di studiare il diritto spaziale? Questo era Gassman che parlava ad un giovanissimo profetico che parlava a un giovanissimo trentignan nel film di Dino Risi, Il sorpasso del 62, che io mi sono rivisto ultimamente e ho scoperto questa scena di loro ad un luogo che è praticamente un autogrill di non so dove, in cui mettono in piedi questa discussione che tu non hai sentito, ma in cui appunto Gassman dice: ma perché studi ancora cose del passato? Quando lui è un trentignano, è uno studente di diritto, no? E gli dice: ma perché invece non studi diritto spaziale? Perché invece non studi se si possono lottizzare i lotti sulla Luna? Quindi diciamo assolutamente prefigurativo in una maniera incredibile. Sì, io non me ne ero mai accorto, avevo visto in passato il il sorpasso, ma diciamo film epico, perché epico è il percorso che Trentignan percorre fino alla, vabbè, diciamo, non lo diciamo, anche se lo sanno tutti, fino alla morte in questo film. E io, ecco, però, hai rovinato tutto. No, ma vabbè, però insomma, il film vale in realtà per tutto quello che c'è in mezzo. Ma Bimo, io ti volevo chiedere questa cosa, ti volevo chiudere con questo interrogativo. Allora, l'interrogativo è questo: ma io e te siamo un po' i Gasman del sorpasso per Trentignan? Trentignan sono i nostri ascoltatori che ci ascoltano, e noi siamo un po' coatti un po' alla Mattatore di Gasman, che si sparano tutte queste cose sul capitalismo spaziale, confondendo chi ci ascolta, così come Gasman confondeva Trentignan, secondo te? Ma sì, direi, da una parte sì, purtroppo, diciamo, però è anche il nostro bello, tu, quindi sì, un sì. Po' sì, però lo rivendichiamo. Però ce lo rivendichiamo, questo mi sembra un'ottima chiusura. E questo è davvero tutto. Io, prima di chiudere, vi lascio con il brano di chiusura, che è un brano degli X-Ray Specs, Identity. Che è del 78 e che in realtà lo metto perché è un pezzo che andava tanto negli anni 90, perché non ricordo se era la sigla di apertura o di chiusura della trasmissione iconica dell'epoca, che era Radio Blisset, che si faceva qui a Roma. In realtà Radio Blisset si faceva a Roma e a Bologna, questa diciamo della sezione romana di Radio Blisset, che veniva fatta a Radio Città Futura. E non mi ricordo appunto se era apertura o chiusura. Comunque, Identity dei X-Ray Specs, scusate, del 78. Lo stomaco e la fame chiama. Credo che sia tutto, Bimo. Io ti saluto. Saluto tutti gli ascoltatori. Io saluto te e saluto anche gli altri. E quindi baci e abbracci. A mercoledì prossimo. A mercoledì. Ciao.